Se fate così è difficile che riesca a parlare. Grazie. Grazie. Io non posso non iniziare ringraziando innanzitutto tutti voi che siete qui oggi, così numerosi. Mi spiace di vedere molte persone in piedi. Forse non pensavamo di avere più di 2000 imprenditori oggi qui con noi. Quindi prima di tutto grazie, grazie di essere qui, grazie di aver voluto essere con me, con noi, in questa ultima giornata di studio del nostro, centro studi. Io vorrei ringraziare innanzitutto Andrea Pininfarina, che come vicepresidente del centro studi insieme a Paolazzi ha seguito questa giornata che penso sarà, spero per voi interessante come lo è stato per me, che sarà concluso dal presidente Barroso. È stato detto prima Torino. Io ci tenevo a chiudere la mia esperienza in Confindustria in questa città, una città importante nella storia del paese, una città importante nella storia dell'industria, una città importante nel laboratorio che ha saputo rappresentare in questi anni. Ci tenevo a farlo nella città di cui, che ospita l'azienda, che è sinonimo di Torino se non altro perché è l'unica azienda automobilistica del mondo che porta nel suo marchio il nome della città, Fabbrica Italiana Automobili Torino. E ci tenevo a farlo con voi cercando di aprire un po' le finestre oggi sul mondo. Abbiamo sentito degli interventi interessanti, abbiamo sentito degli interventi che ci hanno portato a fare quello che è il nostro mestiere di tutti i giorni di imprenditori. Benchmarking, guardare i concorrenti, guardare il mercato, guardare la competizione, qualunque essa sia. E vi devo dire che se, guardando questo magnifico firmato, mi è venuto un po' la pelle d'oca. Mi è venuta l'emozione, mi è venuta l'orgoglio non solo di essere il presidente degli imprenditori italiani ancora per qualche giorno e di esserlo stato per 4 meravigliosi anni, ma mi sono sentito anche orgoglioso di essere italiano per vedere quante cose straordinarie ci sono nel nostro paese e ancora di più dire che non meritiamo, per quello che siamo, per quello che rappresentiamo, di avere la crescita più bassa d'Europa. Non lo meritiamo. Penso anche, riflettevo prima, quando sentivo degli interventi interessanti, tutti quelli che ci hanno preceduto, a cominciare da due imprenditori che abbiamo voluto scegliere tra i tanti piccoli diventati medi e a cui auguriamo di diventare grandi, con la loro esperienza, con la loro passione, con la loro crescita. Dicevo, pensate cosa sarebbe stato questo paese senza l'industria. Pensate cosa sarebbe stato questo paese senza l'industria, senza l'impresa. E quindi credo che in questi anni il sistema delle imprese italiane ha rifiutato la logica del declino, ha dimostrato ancora una volta di saper cambiare per trovare nuove strade di crescita, di innovazione, di successo internazionale, cambiare per crescere. E cambiare prima di tutto in casa nostra, dentro noi stessi. Cambiare vuol dire migliorarsi, cambiare vuol dire cercare sempre di guardare avanti. Abbiamo riguadagnato importanti quote di mercato all'estero. Siamo tornati ad essere secondi tra i paesi europei, dopo la Germania, per il valore delle esportazioni verso i mercati extraeuropei. Sono risultati significativi, ottenuti anche grazie, lo voglio dire forte, allo straordinario coraggio di tantissimi piccoli imprenditori che si sono spinti con fiducia, con entusiasmo, con determinazione su mercati difficili e lontani. A loro, in particolare a loro, e lo voglio ripetere, in particolare a loro, in questi anni ho dedicato lavoro, impegno, e tanta passione. Insieme abbiamo portato, Presidente Morandini e tanti di voi, abbiamo portato a termine con successo tante missioni nei paesi più diversi e alcuni tra i più lontani, paesi in cui il sistema Italia non era mai andato prima. Io voglio ringraziarli, questi imprenditori, per questa straordinaria esperienza e soprattutto complimentarli per i grandi risultati che le loro imprese hanno ottenuto, arrivando appunto a un grande recupero di export, a un grande recupero e conquista di quote di mercato, spesso sacrificando i margini. Abbiamo deciso di dedicare questo convegno di Confindustria, questo convegno del Centro Studi, ad un confronto internazionale vero, approfondito, centrato sulle migliori esperienze e sulle cose da fare. Ne abbiamo ricavato modelli ed esempi importanti, confrontarci con delle realtà, confrontarci con degli esempi. In Danimarca o in Spagna, all'interno della Carpigiani o attraverso l'esperienza della Fiat o di una grande banca che si è internazionalizzata. Quanto è importante per noi imprenditori imparare, migliorare, crescere anche nelle nostre capacità imprenditoriali, nelle nostre capacità manageriali, con un confronto continuo. Molte cose abbiamo imparato appunto che noi imprenditori possiamo e dobbiamo fare, e sono moltissime, perché c'è sempre da migliorare, sempre da imparare, ma anche testimonianze e indicazione per come affrontare una fase difficile del Paese guardando avanti e sfidando nuovi obiettivi. Dopo il voto di domenica si apre oggettivamente una nuova fase e mi fa piacere ritrovare negli impegni delle principali forze politiche e in particolare della coalizione che ha vinto le elezioni molte delle proposte del nostro, anche qualche protesta, diciamo la verità, ma sicuramente molte proposte, perché a noi preferiamo le proposte alle proteste. Con un decalogo che abbiamo presentato alla fine del mese di marzo a tutte le forze politiche in campagna elettorale. Spero, e ripeto, ci fa piacere di vedere che molte di queste sono state fatte proprie, spero che alcune possano essere rapidamente attuate in quei primi giorni di legislatura a cui faceva riferimento un grande riformista come Aznar, che abbiamo voluto qui, sarebbe stato personalmente con noi oggi, ma abbiamo dovuto rinviare per le elezioni di una settimana il nostro convegno, così come un altro grande riformista europeo è stato con noi in una straordinaria giornata di lavoro a Venezia, parlo di Tony Blair. E mi auguro che appunto in questi primi giorni di legislatura queste indicazioni possono essere attuate rapidamente e magari con un accordo molto ampio, perché sono tutte cose che sono fondamentali per il futuro e certamente per la crescita del Paese. Ma al di là di questo ci sono almeno tre elementi sostanziali da cui credo dobbiamo partire. Il primo è la pesantissima sconfitta politica di quelle forze che negli ultimi due anni dentro il governo sono state portatrici di una cultura anti-impresa e antimercato che ha consapevolmente costituito un freno alla crescita economica e alla modernizzazione del Paese. Noi che facciamo impresa abbiamo scelto la competizione selettiva. Chi ce l'ha fatta è oggi più forte, purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta. Questa è la competizione commerciale, industriale, sportiva, è la competizione, quella che noi abbiamo scelto. Noi che nel 2004, ve lo ricorderete, di fronte a un Paese che non cresceva, dicemmo attenzione, se il Paese non cresce non è solo per fatti esterni alle nostre aziende. Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo metterci del proprio, dobbiamo migliorare. Bene, ci siamo veramente rimboccati le maniche e noi sappiamo di che cosa stiamo parlando. Ma oggi, grazie a quello che è successo domenica scorsa in Italia, abbiamo la conferma di quello che abbiamo sempre sostenuto. I no alla TAV, i no alle infrastrutture, i no ai rigassificatori, i no alle nuove centrali, i no ai termovalorizzatori, i no allo sviluppo. Le ideologie vetero-marxiste che non esistevano nemmeno a Cuba negli anni 60, il vedere le imprese e gli imprenditori come nemici, sono patrimonio fortunatamente di una minoranza esigua che oggi non ha neppure rappresentanza in Parlamento. Il secondo elemento che emerge e che porto alla vostra e alla nostra riflessione è che, malgrado una legge elettorale che continua a non convincerci, dalle urne sono uscite una maggioranza chiara e netta, e una forte, inusuale, definirei quasi storica semplificazione del quadro politico parlamentare. Si tratta di due aspetti molto positivi che dovrebbero assicurare stabilità alla legislatura e dovrebbero anche consentire alla coalizione che ha vinto le elezioni una forte capacità di governo. Il terzo elemento che mi sembra di cogliere in maniera evidente nel dibattito di questi giorni è la consapevolezza della situazione, della gravità nella quale ci troviamo. Bassa produttività, rischio di crescita vicino allo zero, su cui Confindustria ha da tempo richiamato l'attenzione, petrolio alle stelle così come altre materie prime, cambio euro-dollaro proibitivo, segnali, qualcosa di più di segnali, di forte rallentamento dei consumi interni, basta vedere l'andamento dei mercati interni in questi ultimi mesi, inflazione in aumento. In questa situazione non c'è alternativa ad una grande, decisa, coraggiosa, radicale stagione di riforme. È di questo che il Paese ha bisogno, sapendo che ci saranno dei costi, certamente ci saranno dei costi, che sono costi che non può essere sempre qualcun altro a pagare. Li devono pagare tutti. Su questo terreno delle proposte riformatrici, così come su quello della crescita economica, il sistema delle imprese italiane continuerà a fare fino in fondo la propria parte. Un ruolo di investimenti, un ruolo di ricerca, di innovazione, quella stessa innovazione che nel 2004 parlammo a 360 gradi, prodotto, processo, organizzazione, marketing, innovazione, di internazionalizzazione, di export, di nuovi posti di lavoro. Questa stagione di riforme profondi, inevitabili, ineludibili, dovrà affrontare le tre grandi priorità, le tre grandi emergenze, lasciatemi dire, che oggi abbiamo davanti. Un'emergenza economica, un'emergenza sociale, un'emergenza istituzionale. Partiamo da quella economica. L'Italia è un paese a due facce. Lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito e ce ne accorgiamo ogni giorno. Quella rappresentata dall'aumento dell'export e della competitività internazionale delle imprese e quella di un paese che non cresce, non attrae investimenti e ha una produttività agli ultimi posti tra i paesi industrializzati. L'Europa è ormai da molti anni il nostro mercato domestico e questo è un fatto positivo. È un mercato aperto, è un mercato integrato. Per noi è sempre più difficile competere con le stesse regole e la stessa moneta, ma penalizzati da una pressione fiscale più alta e da un sistema paese assai meno efficiente. Le imprese hanno accettato il fatto di operare in un ambiente competitivo e concorrenziale, come dicevamo prima, e si sono ristrutturate. Il paese, invece, ha rifiutato di farlo e perde costantemente, inesorabilmente competitività. E le aziende, quelle straniere, ma anche quelle italiane, sempre più spesso scelgono di investire fuori dall'Italia. I tanti deficit di sistema sono noti, quasi è inutile elencarli, quasi alle scuole elementari oggi si conoscono. Li andiamo evidenziando da molto tempo, da anni. Poco o nulla o quasi nulla è stato fatto per correggerli negli loro elementi strutturali. Infrastrutture, burocrazia, burocrazia, burocrazia. Non è come un disco che si è fermato, ma siamo soffocati come cittadini, come imprenditori dalla burocrazia. Se venisse meno la burocrazia ci sarebbe un'esplosione di energie, un'esplosione di crescita, un'esplosione straordinaria. Tasse, tasse sul lavoro, tasse sulla produzione, pochi investimenti in ricerca e innovazione. Abbiamo sentito e mi ha fatto piacere l'analisi sul sistema scolastico e universitario. È bene parlare di queste cose. Mi fa piacere che in questi anni ne abbiamo parlato tanto. Adesso le dobbiamo realizzare. Basta le facoltà condominiali. Basta a premiare solo per anzianità. Portiamo concorrenza, merito, crescere nella scuola, nell'università. Facciamo sì che un bambino di prima elementare, se è più bravo di un altro, di chiunque sia figlio, da qualunque zona provenga, possa diventare il Presidente della Repubblica Italiana. Abbiamo bisogno di merito, abbiamo bisogno di creare competizione, merito all'interno di tutto il sistema a partire dalla scuola. Dobbiamo non sognare un paese che sia in condizioni di premiare i migliori, ma contribuire a realizzarlo. Abbiamo sentito i tempi della giustizia, abbiamo visto una presenza ipertrofica del pubblico nell'economia, soprattutto a livello locale, mancanza di concorrenza in tanti settori della società, mancanza di un'adeguata politica energetica, sia in termini di un grande piano di risparmio, sia in termini di diversificazione delle fonti in attesa del nucleare. Senza parlare degli enormi, inaccettabili ritardi del Mezzogiorno, dove invece è cresciuta in questi ultimi anni una nuova classe imprenditoriale che guarda più al mercato che agli incentivi a fondo perduto. Ciò che frena la crescita non è, amici imprenditori, la globalizzazione, che ha i suoi rischi e i suoi squilibri, ma che rappresenta per gli imprenditori la possibilità di uscire da un contesto paese asfittico e non competitivo. Se prendiamo qualunque parametro che misura l'efficienza e la competitività del sistema Italia, vediamo chiaramente che purtroppo siamo agli ultimi posti tra i paesi industrializzati. Non lo meritiamo e soprattutto non vogliamo accettarlo. Lo ripeto, nel breve, le imprese possono salvarsi andando all'estero, l'Italia no. Noi vogliamo un paese dove si possa investire perché ci sono le condizioni per farlo. E qui tutti, nessuno escluso, politica, società civile, governo, sindacati, imprese devono fare la propria parte per modernizzare il paese e per modernizzare le regole del paese. Si devono superare i troppi egoismi corporativi che rallentano la crescita del paese. Il risultato dell'elezione, tra l'altro, conferma qualcosa che noi andiamo dicendo da tempo, ed è qualcosa di importante, è un'inversione di tendenza, è un clima che sta cambiando. I lavoratori non si sentono più rappresentati da forze politiche e sociali incapaci di dare vere risposte ai loro problemi concreti. E sono molto, ma molto più vicini alle nostre posizioni che non a quelle dei sindacalisti. È ormai chiaro che la trincea dei negoziati infiniti, del rifiuto di guardare con occhi obiettivi la realtà e soprattutto in che direzione sta andando il mondo, o meglio è già andato. Serve soltanto a difendere una casta di professionisti del veto e del no. E state a sentire. Io non credo, onestamente, di poter essere accusato di pregiudizio nei confronti dei sindacati. Anzi, dal primo giorno della mia presidenza abbiamo con tutto il comitato di presidenza cercato di coinvolgerli in un necessario, ineludibile processo di modernizzazione delle relazioni industriali, sempre basato sul dialogo, ma finalizzato anche a prendere delle decisioni. In 4 anni le 3 sigle sindacali maggiori non hanno voluto o potuto raggiungere un accordo, badate bene, non con noi ma tra di loro. Certo, in questi anni, pensate al 2004, pensate al 2005, in cui c'era una situazione obiettivamente economica diversa, abbiamo dovuto privilegiare l'obiettivo di un basso livello di conflittualità che era fondamentale, mentre le imprese erano impegnate in un forte e decisiva azione di ristrutturazione. Ma la scarsa lungimiranza da parte del sindacato nell'evitare il confronto sui temi fondamentali per il futuro delle imprese e in particolare per il futuro dei lavoratori, questa scarsa lungimiranza è stata obiettivamente clamorosa. È troppo anche in Italia sognare un mondo dove non solo gli imprenditori e i lavoratori, ma anche i sindacati facciano il tifo per la competitività e la crescita delle imprese? È troppo sognare tutto questo? Non è un caso, forse, che oggi il sindacato rappresenti soprattutto pensionati e lavoratori pubblici e sia sempre più distante dal mercato e dalle sue regole. Vi è una chiusura totale nei confronti del concetto di merito. Si preferisce mettere tutti i lavoratori sullo stesso piano, penalizzando quelli che fanno meglio il proprio lavoro, che sono disponibili a lavorare di più. Io lo dico veramente con rispetto, ma è veramente ora che il sindacato apra gli occhi, si confronti con il mondo reale, rinunciando a pratiche vecchie, inutili, come quelli degli scioperi obbligatori e rituali, ogni 2 anni accompagnano puntualmente, inesorabilmente, il rinnovo dei contratti di lavoro. Riti logori e vanamente costosi per le imprese e anche per i lavoratori. Abbiamo bisogno, credo che questo sia importante, abbiamo bisogno invece di un sindacato autorevole, capace di rappresentare gli interessi dei lavoratori e non quelli dei sindacalisti, come si legge nel libro L'altra casta, e che in Italia oggi, pensate, i delegati sindacali, i sindacalisti, sono 6 volte più numerosi dei carabinieri. Abbiamo bisogno di un sindacato moderno anche per affrontare l'urgenza sociale, che è la seconda dopo quella economica a cui facevo cenno, con cui ci confrontiamo. È un problema a cui non possiamo dare risposte semplicistiche. Rispetto agli altri paesi europei, purtroppo, ci siamo impoveriti, come dimostrano i dati relativi al PIL pro capite, e quindi dobbiamo rimettere al centro la crescita. Questa crescita su che abbiamo portato all'attenzione del Paese, delle forze politiche, di maggioranza, di opposizioni, governi, come il vero bene comune di questo Paese. La crescita come bene comune. E la crescita, amici imprenditori, non la porta la cicogna. La crescita la fanno le imprese e chi lavora nelle imprese. E questo è bene che tutti lo sappiano, perché questa è una realtà. Teniamo sempre a mente cosa avrebbe significato poter disporre oggi dei 220 miliardi di euro in più che sarebbero derivati al nostro Paese di una crescita del PIL in linea con la media, non con i massimi, con la media europea negli ultimi 15 anni. 220 miliardi di euro in più. Ai livelli attuali di pressione fiscale vorrebbe dire avere oggi, ogni anno, ogni singolo anno, 90 miliardi di euro in più per investimenti pubblici, in asili nido, in infrastrutture, in ricerca e formazione, in spesa sociale e in ammortizzatori sociali. 90 miliardi di euro in più solo se il nostro Paese, e viva Dio perché questo non debba avvenire, non lo sappiamo, fosse cresciuto rispetto alla media europea. E la risposta all'impoverimento può venire solo, sembriamo noiosi e ripetitivi, solo da una maggior crescita. E potrà esserci un aumento delle retribuzioni solo a fronte di un incremento consistente della produttività. In Germania i salari sono aumentati, ma ancora di più dei salari è aumentata la produttività. E qui riteniamo importante che la coalizione che ha vinto le elezioni abbia messo in agenda per il primo Consiglio dei Ministri la detassazione degli straordinari e del salario variabile. È un fatto importante. Attenzione, non si tratta solo di un provvedimento che va nella giusta direzione ed è gradito ai lavoratori, prima di tutto ai lavoratori, perché ne vedono i benefici, ne vedono un aumento della capacità del loro salario, della dimensione del loro salario. Ma è anche un'inversione di tendenza importante, un'inversione di tendenza, lasciatemi dire, culturale nel nostro Paese e di fondamentale importanza nel mondo di relazioni industriali che noi vogliamo fortemente innovare e da cui sono venuti molti stimoli sia a livello internazionale che a livello nazionale di chi mi ha preceduto. Se riuscissimo a far questo, e lo faremo, significherebbe la possibilità concreta, come abbiamo sempre chiesto, di poter finalmente pagare di più chi lavora di più, chi contribuisce ai risultati dell'impresa, giustamente fondamentali per il loro supporto e per il loro lavoro. Pagare di più chi lavora di più, coinvolgere come tutto il management i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici sui risultati delle nostre imprese. E poi si farebbe anche un passo finalmente importante sulla strada di un nuovo, ineludibile, necessario modo di fare i contratti, un livello nazionale più snello e retribuzioni legate ai risultati invece a livello aziendale. Penso anche che in questo modo si potrebbe favorire una durata di contratti triennali così da ridurre una conflittualità inutile e dannosa ogni due anni che non è certo nell'interesse di nessuno. Bisogna poi, e l'abbiamo sentito dire anche questo, mettere mano ad una profonda riforma del welfare, con un mercato del lavoro più selettivo e più flessibile, più selettivo e più flessibile. Non è certo con le assunzioni per sentenza o per decreto che si risolvono i problemi dei lavoratori. Occorre tanta formazione, occorrono ammortizzatori sociali moderni, come ha ben spiegato il ministro Fredriksen e come aveva sempre sostenuto Marco Biagi. Non dimentichiamoci che uno dei pochi risultati positivi che possiamo vantare negli ultimi 10 anni, frutto delle riforme del mercato del lavoro, è la drastica riduzione del tasso di disoccupazione. Abbiamo creato oltre 3 milioni di nuovi posti di lavoro e di nuovi occupati in un periodo in cui l'economia ha centrato, ahimè, 2 record negativi. La peggior performance dal dopoguerra e il più basso tasso di crescita tra i paesi industrializzati se escludiamo il Giappone. Le insicurezze degli italiani però non riguardano solo la sfera economica e ce lo dobbiamo dire con chiarezza. Penso ad esempio al tema della criminalità. Quante volte in questi ultimi anni abbiamo detto che l'indulto è stato un provvedimento disastroso, perché ha dimostrato, perché ha dimostrato una scarsa considerazione verso proprio le fasce più deboli della popolazione, quelle che sono più esposte a fenomeni di microcriminalità e hanno meno modo di difendersi. L'indulto è stato un brutto segnale in un paese in cui troppo poco rispetto, e lo ripeto ancora, l'ho detto nella nostra assemblea, troppo poco rispetto è portato alle vittime della criminalità e del terrorismo. E lo voglio dire forte, proprio a Torino, la città che ha pagato uno dei prezzi più alti durante gli anni di piombo. Abbiamo bisogno di una politica forte, ma abbiamo bisogno di uno Stato forte per ridare sicurezza a cittadini e per dire sicurezza a imprese. Confindustria è stata, è e sarà sempre in prima fila nel combattere tutti i fenomeni di illegalità, dal pizzo all'evasione al lavoro nero. Ma per sconfiggere questi fenomeni una volta per tutto occorrono presidio del territorio, tempi della giustizia rapidi e soprattutto certezza delle pene. Possiamo espellere chi paga il pizzo e lo faremo, ma non servirà a nulla se poi non riusciremo a tenere in galera gli estorsori per più di qualche giorno. E vorrei sottolineare una cosa, una grande verità. Presidente, benvenuto. Bienvenidos. Buonasera. Soprattutto nel Mezzogiorno, ma non solo nel Mezzogiorno, la lotta alla criminalità, alla malavita, significa anche difesa del libero mercato, da chi vuole con la violenza imporre le proprie regole. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Il combattere la violenza, il pizzo, l'illegalità significa difendere un mercato libero e che non si vuole controllare e chiudere con la violenza. Ma nello stesso modo Confindustria, ne sono certo, continuerà ad essere concretamente in prima linea nel grande tema della sicurezza del lavoro, come è stato tra l'altro già annunciato e sottolineato da Emma Marcegaglia. Lo facciamo da anni nelle nostre imprese con grandi investimenti e risultati concreti, perché i nostri collaboratori, e qui vi chiederei un applauso non per me ma su questo concetto, perché per noi imprenditori i nostri collaboratori rappresentano il patrimonio più importante di cui disponiamo. Ed è proprio per questo, perché è il patrimonio più importante di cui disponiamo, che rifiutiamo la demagogia di un provvedimento come il testo unico recentemente approvato, che pensa solo ad inasprire in maniera assurda le sanzioni e non si preoccupa invece con le sanzioni, purtroppo, a cose avvenute, non si salva nemmeno una vita umana. Ma bisogna farlo con più prevenzione, con più formazione, in particolare formazione e prevenzione nella piccola e piccolissima impresa, e con controlli che vanno intensificati nel sommerso, dove si annida il lavoro nero, dove si annida la criminalità. Uno Stato che funzioni che dia certezza e servizi adeguati. Questa è una richiesta forte ed esprime l'urgenza di riforme istituzionali, di cambiamento della macchina dello Stato, che ci rendano più efficienti e moderni e che soprattutto semplifichino la vita ai cittadini e alle imprese. Noi abbiamo messo nel nostro decalogo priorità numero uno la riforma dello Stato e la revisione della Costituzione, della seconda parte della Costituzione. E abbiamo da tempo indicato le priorità, le conosciamo, le abbiamo elencate sia nell'assemblea nostra di maggio sia nel nostro decalogo e non ne vorrei neanche più ripeterle. Però o noi cambiamo questa macchina, consentitemi di fare un unico accenno al mestiere che faccio con più passione della mia vita, dopo quello di Confindustria, ma ormai siamo alla fine. Chiunque sia il pilota di una grande macchina di Formula 1, se la macchina è troppo pesante, se la macchina è troppo difficile da guidare, se la macchina è troppo complicata, chiunque non vince. Noi abbiamo messo la riforma dello Stato perché solo attraverso la riforma dello Stato che si può affrontare tutto il resto. Come possiamo continuare a vivere senza pensare di andare a tagliare le province, almeno quelle più grandi? Come possiamo pensare che c'è una Camera e un Senato che fanno esattamente la stessa cosa? Come possiamo pensare che il primo ministro abbia dei poteri minori di un sindaco di un piccolo paese? Come possiamo pensare di lavorare con una complicazione così grande, circoscrizioni, comuni, province, regioni, comunità montane? È troppo complicato il nostro paese, non ce la facciamo più. Per il cambiamento che chiediamo serve però anche una grande operazione verità. Adesso è finita la campagna elettorale e forse tutti possono dire qualche verità in più. Abbiamo il dovere civile di guardare fino in fondo lo stato generale del nostro paese, non solo economico. È un'Italia con delle straordinarie eccellenze, le abbiamo viste in parte o in gran parte nel filmato, ma anche con troppe cose che competono allo Stato che non funzionano. E ci preoccupa una sorta di asseffazione, come che un paese che si abitua a tante distorsioni che ci separano dai paesi fuori dall'Italia e che da troppo tempo abbiamo sotto i nostri occhi e con cui ci siamo abituati a convivere. Siamo forse l'unico paese al mondo dove i partiti nominano anche i chirurghi e i primari, e questo è molto triste. Ma è ancora più grave che la politica consideri questa cattiva pratica assolutamente normale e non faccia assolutamente nulla per cambiarla. Anzi, direi, in questi ultimi anni, in questi ultimi 15 anni, se posso dire, le scorribande del pubblico nelle più diverse attività, soprattutto nel territorio, stanno aumentando a spese dei cittadini e a spese delle imprese. Abbiamo più volte parlato del neostatalismo municipale, abbiamo parlato che lo Stato deve fare un passo indietro e non fare tutto quello che potrebbero e dovrebbero fare i privati. In una grande lezione a Venezia ce l'ha spiegato Tony Blair a proposito delle riforme in Inghilterra. I partiti devono fare un passo indietro. Deve riprendere a tutti i livelli un forte, preciso, deciso programma di liberalizzazioni e privatizzazioni, le quali privatizzazioni, tra l'altro, servono anche, ma non solo, a generare denaro per le casse dello Stato da impiegare in investimenti, visto che non ci sono denari per gli investimenti pubblici in tante cose fondamentali per il futuro del Paese. Ma qui c'è un'altra cosa su cui vorrei richiamare la vostra attenzione e riguarda anche la necessità di dirci fino in fondo la verità su tante cose di questo Paese, ma anche sui salari e sul loro potere d'acquisto. Oggi un operaio che paga le tasse, che non evade perché gli vengono addirittura prese all'origine, attenzione a quello che vi sto per dire perché è interessante. Oggi su 8 ore di lavoro un operaio o un impiegato fa sì che solo l'equivalente di 2 ore e mezza delle sue 8 ore finisca il denaro nelle sue tasche. Il resto, ripeto, l'equivalente di 5 ore e mezza, perché 2 ore e mezzo gli va, le altre 5 ore e mezza su 8 del suo lavoro, bene, il suo denaro che lui guadagna col suo lavoro viene incamerato da Stato, regioni, province e via dicendo, comuni sotto forma di imposte dirette o indirette, accise o contributi vari. E questo è lo spaventoso, inaccettabile divario tra il costo all'azienda e quanto resta in tasca ai lavoratori, e che va drasticamente ridotto questa. Perché non è giusto. Ora noi, per questo, noi abbiamo il diritto di sapere con assoluta certezza dove vanno i nostri soldi, i nostri, dove vanno i soldi dei nostri lavoratori, dove vanno le tante tasse che paghiamo a diverso titolo. Perché va smascherato chi da un lato pone l'accento sulle difficoltà vere di tante famiglie con redditi bassi, vere, e nello stesso tempo però difende i privilegi e i costi assurdi di una burocrazia pletorica e totalmente improduttiva. O chi rifiuta di alzare l'età pensionabile, malgrado l'aumento delle aspettative di vita, malgrado quello che succede in giro per il mondo, e pone così le premesse per un aumento della pressione fiscale, perché i costi della previdenza assorbono in Italia delle risorse infinite che andrebbero invece destinate molto di più alla crescita, agli sviluppi, agli investimenti. Aver conto e ragione di come vengono spesi i nostri soldi è un principio fondamentale in una democrazia moderna, e in Italia può essere il punto da cui partire per mettere mano a cambiamenti profondi dello Stato e a tagli drastici, drastici di quella spesa pubblica improduttiva che ormai è quasi il 50% del PIL e che sottrae risorse agli investimenti al futuro. Dobbiamo avviare non solo nei dibattiti, non solo nei convegni, ma nell'attività di tutti i giorni un circolo virtuoso: meno spese, meno tasse, più investimenti. Ed è positivo che maggioranza e opposizione si dichiarano in questi giorni pronti a lavorare insieme per riformare lo Stato e per dargli autorevolezza. Di questo nuovo clima, che ci piace molto, che è costruttivo, dobbiamo dare atto anche al leader dell'opposizione. Quante volte in questi anni abbiamo chiesto un pit stop per le riforme, per cambiare lo Stato? E vi devo dire che il compito che attende tutta la classe dirigente, non solo quella politica, ci siamo anche noi di mezzo, il compito che attende la classe dirigente del nostro Paese nei prossimi anni è estremamente difficile. Siamo chiamati ad una vera e propria opera di ricostruzione di questo Paese. In tante aree le abbiamo cercato di elencare in cui il Paese non funziona più. E non è una ricostruzione perché usciamo, e fortunatamente non è così, da una guerra, ma usciamo da troppi anni di non scelte. Confindustria dovrà svolgere il suo ruolo affermando non solo la centralità dell'impresa come unico e vero motore di sviluppo, ma anche partecipando con coraggio, autonomia e autorevolezza al dibattito e alle scelte sul futuro dell'Italia. Diventa necessario a questo punto ripartire i carichi di responsabilità tra le classi politiche e le élite economiche e sociali del Paese. Questo è un nuovo patriottismo, è un nuovo impegno civile, ripartire tra le classi politiche e le élite sociali e economiche del Paese, questa opera. Vedete, questo è l'ultimo appuntamento pubblico nel quale prendo la parola come vostro Presidente. E non posso che concludere facendo molti ringraziamenti. Dovrebbero essere tanti e non vi vorrei annoiare. Ma sono ringraziamenti che prima di tutto faccio a tutti gli imprenditori italiani, piccoli, grandi, medi, grandissimi e piccolissimi, per questi 4 anni di lavoro insieme. Anni difficili, segnate da campagne elettorali continue, dalla metà del 2004 a domenica scorsa, e da ripetuti cambi di quadro politico. È stata per me una esperienza impegnativa, anche fisicamente faticosa, ma soprattutto entusiasmante, di cui vi voglio dire grazie. Insieme tutti abbiamo saputo rispondere come imprenditori, come associazione agli obiettivi che ci eravamo dati 4 anni fa, dimostrando che è cresciuto in Italia un nuovo capitalismo moderno, vitale, fatto di tante imprese che stanno sul mercato e che non vivono salotti ovattati, ma mercati, concorrenza, prodotti, clienti. Siamo stati coerenti, questa è la cosa che mi fa più piacere. Abbiamo cercato di guardare prima ai problemi in casa nostra e abbiamo dimostrato sempre nei fatti di credere nel mercato. Abbiamo portato avanti insieme un progetto di modernizzazione molto ambizioso del sistema associativo. Abbiamo quotato in momenti di mercato difficilissimo il Sole 24 Ore, abbiamo concretamente assistito più di 7.000 imprese nel difficile processo di internazionalizzazione, soprattutto le più piccole. Abbiamo raggiunto il record storico di iscritti a Confindustria e per la prima volta dopo molti anni, direi moltissimi, abbiamo anche ottenuto un taglio alla pressione fiscale sulle imprese. Siamo rimasti fuori dallo scontro partitico, ma credo che siamo sempre stati al centro del dibattito politico con grande autonomia, proponendo progetti e soluzioni per i problemi del Paese e parlando sempre prima come cittadini e poi come imprenditori. Penso alla grande battaglia sulla concorrenza, che abbiamo definito e che per noi rappresenta un bene comune, la concorrenza. E sul merito, concorrenza e merito come veri veicoli di modernizzazione e come veicoli di maggiore equità sociale, merito e concorrenza. Come dimostrano anche gli ultimi appuntamenti, un po' diciamo di convention e di crescita professionale, dalla Winter University a Venezia all'incontro di oggi a Torino, abbiamo cercato di tenere sempre bene aperte le finestre sul mondo, rifiutando di rimanere impantanati in dibattiti spesso provinciali e autoreferenziali. Abbiamo saputo essere uniti e compatti, piccoli, grandi e medi, e di questo il ringraziamento più grande, la gratitudine che ho nei vostri confronti, anche nei momenti in cui i toni del confronto politico nel Paese si facevano accesi ed in alcuni casi violenti e demagogici. Siamo sempre stati uniti, non ci siamo mai fatti intimidire in questi anni. abbiamo abbinato l'impegno civile alla passione, alla grande passione per il nostro lavoro di imprenditori, capaci di guardare avanti, di accettare nuove sfide, di vivere quotidianamente il nostro lavoro, il nostro impegno, con una straordinaria passione. Non abbiamo mai perso di vista il bene comune. Soprattutto siamo e continueremo ad essere costruttori del futuro. Una società che non si mette in gioco accettando il rischio diventa una società dove il domani può essere rischioso, se non si accetta il rischio. Riaprire lo spazio al futuro, cambiare per crescere, perché riaprire lo spazio al futuro è la condizione perché sia facile e sia persino piacevole essere italiani in un'Italia che ristabilisca il circuito virtuoso della fiducia, dell'entusiasmo, del sorridere, nel da guardare avanti con ottimismo. È un impegno che anche come imprenditori all'interno delle nostre aziende, rinnovando, dando spazio ai giovani, puntando sui giovani, puntando sulle nuove generazioni, è un impegno che dobbiamo prendere con i tanti giovani di questo nostro paese proprio perché sentiamo di essere classe dirigente. Pensiamo a quale tipo di società, a quale democrazia, a quale capitalismo, a quale mercato ci piacerebbe per il nostro futuro, ci piacerebbe per il nostro futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché il futuro è lì. È questa nuova idea dell'Italia che, rispettando il proprio ruolo, facendo il bene il proprio mestiere, non invadendo campi di altri, vogliamo contribuire a realizzare una Italia che cresca, che guarda al futuro. E voglio concludere ringraziando in modo particolare, primo, tutti i presidenti di associazione, di categoria, territoriali, provinciali, regionali. Li ho visitati tutti, è stata per me un'esperienza straordinaria. Vorrei ringraziare gli uomini e le donne di Confindustria, che sui mercati, che in Italia e fuori hanno lavorato con passione, con entusiasmo e con competenza. E vorrei ringraziare il mio comitato di presidenza. In questi 4 anni non abbiamo mai avuto un momento di non chiarezza, di profonda lealtà, di spirito di squadra. E quindi li voglio ringraziare uno per uno, perché l'applauso che ho avuto l'orgoglio e l'onore di ricevere da voi va diviso con chi con me in questi anni ha lavorato con lealtà, passione, competenza e ha lavorato con grandissimo impiego di forze fisiche e mentali, trascurando il proprio lavoro, dando veramente un servizio a tutti voi e a Confindustria. Ho finito. Io ho finito.